got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, dilli. Che cavolo aspettiamo a mangiare? Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti a questa cena messicana. Questa sera abbiamo una giornalista di origine messicana da 8 anni in Italia, Cynthia Rodriguez, buonasera. Salve, buonasera a tutti. Grazie per essere con noi. Allora, tu collabori con diverse testate messicane, no, dall'Italia. Ormai, da, mi dicevi, ieri sono 8 anni che sei qui. Sì, sì, ieri ho fatto 8 anni già in Italia. Prima sono arrivata a Roma e poi a Milano. Quindi dall'Italia per testate messicane, però anche hai avuto modo di scrivere per i nostri giornali, no? Tra l'altro, lo dicevamo prima fuori onda, a me ha colpito molto questo articolo che tu hai scritto poco tempo fa, il titolo era già forte di per sé, scusate il disturbo ma ci stanno uccidendo, a cosa ti riferivi? Ma è stato un problema che in Messico hanno ucciso 43 studenti, vabbè, hanno spariti ancora, non vogliamo dire che li hanno uccisi, anche è la cosa più sicura, appena l'altro ieri hanno informato che i resti che hanno trovato appartengono a uno dei questi 43. Questi 43 studenti, abbiamo letto, sì, qualcosa di questo, l'abbiamo anche sentito ai telegiornali, ma sentiamo proprio questo audio che ci ricorda qual è la notizia. Identificati in Messico i resti di uno dei 43 giovani forse uccisi dai narcotrafficanti. Potrebbe essere la prima vittima di un massacro. Il sospetto è che sia stata un'esecuzione di massa. Le vittime, secondo le indagini di alcuni media, sarebbero poi state bruciate per renderle irriconoscibili e gettate in una discarica, come questo giovane. Alla disperazione della famiglia invitano a voltare pagina, ma stavolta l'indignazione è troppo forte e questa tragedia mette seriamente a rischio il destino dell'esecutivo e del presidente Enrique Peña Nieto. In migliaia chiedono giustizia in tutto il paese. A indignare un'intera nazione, soprattutto i motivi di questo probabile massacro. Gli studenti sarebbero stati rapiti e poi uccisi su iniziativa dell'ex sindaco di Iguala, José Luis Abarca, e di sua moglie, sorella di 3 narcotrafficanti di droga molto noti. La coppia, che è stata arrestata, secondo gli inquirenti temeva che l'arrivo in città degli studenti, attivi politicamente, disturbasse un evento pubblico promosso dallo stesso Pineda. La notizia dell'avvenuta identificazione dei resti è stata diffusa all'inizio attraverso i social network. I periti argentini che li hanno recuperati avrebbero confermato. A quel punto le autorità non sono più state in grado di coprire la cosa e questo ha gettato benzina sul fuoco delle proteste. E proteste che ci sono state anche in Italia, come tu hai raccontato molto bene, a Milano, a Piazza Cordusio, qualche settimana fa si sono radunati tanti messicani provenienti da tutto il nord Italia, no? Sì, e non è stata l'unica. 2 giorni dopo ci sono state tante manifestazioni in tante città dell'Italia, principalmente a Milano, a Roma, Napoli, Bari, Firenze, anche aiutati da Libera. Insomma, il titolo del tuo articolo, scusate il disturbo ma ci stanno uccidendo, era uno striscione che è stato portato a queste manifestazioni, era quello che era scritto in uno striscione, no? Un altro mi ha colpito, benvenuto in Messico dove essere povero è un peccato, studiare è un crimine, protestare è un reato. Sì, diciamo che io mi occupo di queste cose già da prima di venire in Italia, ma quando sono arrivata qua è stata la coincidenza che in Messico è cominciato la chiamata cosiddetta guerra contro il narcotraffico che ha impulsato il presidente Felipe Calderón. E in quel periodo sono state uccise un sacco di persone, scomparse ancora di più, e si diceva che con il ritorno del PRI, no, che ci ha governato prima più di 71 anni, sarebbe stato meglio, no? Ritornerebbe l'ordine. Invece non è stato così. Stavo leggendo che soltanto in questo periodo, con il nuovo presidente Enrique Peña Nieto, soltanto in 2 anni sono già quasi 10.000 persone scomparse. Quindi è una situazione molto grave quella che si sta vivendo in Messico, e questo caso in specifico, quello dei 43 studenti, è un caso emblematico, perché si parla di studenti, di persone giovani, dei più poveri, no? Quindi diciamo che questo caso, tra l'altro 43 studenti, non pochi da far sparire, ecco, ha portato alla ribalta un problema che già c'era, perché appunto, come dicevi, 10.000 desaparecidos, centinaia di migliaia di persone torturate, no? Che hanno subito intimidazioni, e migliaia anche gli sfollati. Come mai, secondo te, è accaduto tutto questo? Mi pare di capire da circa 8 anni, proprio da quando tu sei partita dal Messico, il paese vive una realtà che ufficialmente si chiama guerra contro il narco, ma in realtà è una grande crisi, no? Dei diritti umani, sociale, politica, anche economica. Sì, prima penso che tutti questi problemi esistevano, solo che erano molto focalizzati. Per esempio, si parlava, qua in Italia è stato molto noto la guerriglia con i zapatistas, no? Però sempre era al sud, no? E rimaneva lì, a Chiapas. Poi c'era il problema delle donne scomparse a Ciudad Juárez, che era una città di confine, quindi si parlava che era non ovvio, però a un certo punto le autorità voleva che la popolazione dicesse: ma vabbè, è un problema del confine, no? Mentre qua non succeda nulla, noi siamo a posto. E invece con la guerra contro il narcotraffico noi abbiamo capito che era un po' dappertutto, no? Questa violenza, le persone scomparse soprattutto, che hanno cominciato a uscire un po' dappertutto, no? Ogni giorno noi sappiamo di altri casi. Quindi Cynthia, molto... ci sono persone che tu conosci che si trovano in questa situazione? Purtroppo sì, però io ci tengo molto a dire, per esempio, io sono nata a Città del Messico. Città del Messico ovviamente è la città più importante, no? Dove si trova il governo, dove c'è tutto. È molto diversa la realtà a Città del Messico che dal resto, però... Nonostante questo, le uccisioni, le scomparse anche accadono, è una cosa tristissima, che è sempre contro i più giovani. Stavo leggendo anche che hanno ucciso un'altra ragazza, no, che era una studente modello, no, all'UNAM, che è la più nota università del Messico, anche di Latino America. È sempre così, quindi è un po' dappertutto. Cioè gli studenti, dicevo, i giovani sono più nel mirino. Sì. In questo caso, nello stato di Guerrero, sono studenti tra l'altro di una scuola povera, di una zona povera. Sì, da noi si chiamano scuola normal superiore, che è la scuola normale dove studiano per diventare maestri, no, professori, però sempre nelle zone rurali, no? No, rimangono lì per aiutare sempre ai più poveri. Quindi questo lo fa ancora più indignante, no? E l'altro fatto veramente indignante è che pare che siano stati uccisi, pare, su indicazione del sindaco, quindi insomma di una persona che rappresenta un'istituzione, perché erano in procinto di andare a una marcia contro le istituzioni per l'anniversario di un massacro avvenuto nel 68. Sì, e anche perché stavano chiedendo delle risorse per la loro scuola, no? e li hanno sequestrato praticamente, li hanno consegnato, prima li ha sequestrato l'autorità, cioè i poliziotti, e li ha consegnato a questo gruppo criminale Guerreros Unidos. You've got to give a little... Indovina chi viene a cena. Lei è bella, lo so, è passato del tempo e io ce l'ho nel sangue ancora. E vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò. Queste sono situazioni di contrabbando. Meglio star qui seduto a guardare il cielo davanti a me, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere, oh Messico e nuvole, la faccia triste dell'America. Siamo questa sera con una giornalista messicana in Italia da 8 anni, Cynthia Rodriguez. Stiamo parlando di quello che è accaduto in Messico per la vicenda degli studenti scomparsi nello stato di Guerrero. Cynthia, dicevamo, era una scuola povera, uno stato anche povero dove le diseguaglianze sono molto forti. Ci sono centri turistici come Acapulco e poi comunità tra le più povere del Messico, no? Sì, i più poveri, sì. E questa discrepanza, disuguaglianza forse è incendiaria in certi casi. Sì, anche perché, per esempio, ti dicevo, non è che noi vogliamo colpabilizzare, no, a questo presidente che è arrivato appena 2 anni fa, però non è stato lui congruente, neanche vicino, no, a questa situazione. Lui si ha detto qualcosa fino a che, dopo il Papa, no, per esempio, quasi 2 mesi dopo ha parlato di questo problema. Poi si è saputo che la moglie ha una casa che vale un sacco di soldi che non possono spiegare come ce l'hanno, no? Quindi... una villa che pare essere stata ricevuta, diciamo così, in dono dalla moglie, pare da uno dei maggiori le aziende fra i maggiori contrattisti, sì, del governo, sì, stesso, come, sì, se Michelle Obama regalassero la Enron o la Texaco, regalasse, esatto, una villa, insomma. Esatto, sì. 8 milioni di dollari è quotata, sì, questa villa. Sì, e insomma, sì, questo presidente sembra in odore di corruzione. E questo è il problema del Messico. In queste ore, tra l'altro, Cynthia, si parla molto di corruzione e anche infiltrazione mafiosa in Italia. Tu che hai avuto un'esperienza ormai lunga in Italia e provieni dal Messico, cosa è diverso? Cosa può accomunare i due paesi? Guarda, io per quello che mi rendo conto, penso che una cosa importantissima che ha l'Italia, che in Messico non c'è, è che la magistratura qua è indipendente. Riescono a fare delle vere inchieste, e una cosa, ti giuro, che in Messico non so quando lo vedremo. Almeno qua accade qualcosa. In Messico è questa, per questo c'è questa diffidenza, perché nonostante tutti gli scandali, è un paese dove non succede nulla, dove nessuno va in carcere. Non ci sono indagini, insomma. No, dicono di sì, però non ti portano, no, ai veri colpevoli. Quindi l'impunità oltre alla corruzione, esatto, è, sì, l'altro grande problema. Quindi, sì, dal punto di vista, diciamo, di una messicana in Italia, questo anticorpo della magistratura in Italia tu lo vedi come un anticorpo positivo per il paese? Sì. Cioè, fa male, perché fa male sapere che i soldi dei tutti i cittadini non sempre finiscono, no, nelle mani de qualcuno più furbo. Però allo stesso tempo penso che fa molto bene saperlo e fermare a tutti questi ladri, no? È una garanzia. Sì. Un altro anticorpo dovrebbe essere quello della stampa, della libera stampa. Leggevo, certo, che il Messico dopo l'Iran è uno dei posti più pericolosi per un giornalista. Tu che sei giornalista e provieni da quel paese, puoi confermarcelo? Sì, sì, sì. Sì, negli ultimi 10 anni sono stati uccisi almeno 80 giornalisti. E questa è una cosa gravissima perché ti ripeto, quelli giornalisti che lavorano a Città del Messico sono più al sicuro, però quelli che lavorano in Guerrero, Michoacán, Ciudad Juárez, tutto il resto, veramente rischiano troppo, no? Certo. E tu a Città del Messico lavoravi come giornalista prima di arrivare in Italia? Sì, sì, sì. E quindi hai avuto la sensazione di un mestiere che subisce delle pressioni forti? Sì, però è un po' strano perché c'è questa, non so come chiamarlo, i politici sono così furbi, no? che non ti minacciano direttamente, no? Ti regalano delle cose che ovviamente non tutti accettiamo, però c'è questo sono molto pervasivi, insomma. Sì, questo controllo, no? Che neanche arrivano te come giornalista, no? Arrivano ai direttori, no? Rimane certo. Lì. Quindi tu li ordini e a volte è difficile rimanere indipendente. Certo. Cintia, cosa hai lasciato in Messico e di cui senti più nostalgia? Noi di solito questa è una cena, dicevamo all'inizio, una cena messicana. Per andare a temi più leggeri, c'è un piatto che ti è caro del tuo paese che riesci a riprodurre in Italia oppure che appunto non riesci a riprodurre, quindi ne hai nostalgia? No, qualcosa riesco, però in realtà quelli più elaborati no. Io ho scoperto da poco che con i nachos, no, si possono fare chilaquiles. Mm-hmm. Che aggiungi ai nachos, aggiungi una salsa molto piccante, un po' di formaggio, pollo, no? Crema e formaggio e via. Però no, i piatti più elaborati è veramente difficile. Tu come mai sei arrivata? Sei capitata in Italia o hai scelto di venire nel nostro paese? Beh, un po' tutte e due. Io in quel periodo lavoravo in Messico e ho conosciuto mio marito là. E mi sono innamorata. E poi al poco tempo già mi sono trovata qui. La comunità messicana qui? Sì, la comunità messicana diciamo si divide in due. Quelli che vengono al Vaticano, no? Quelli che vogliono diventare preti. Mm-hmm. E poi le donne, no? Che si sposano con italiani. Mm. Ovviamente ci sono studenti, un sacco di studenti che adesso si stanno mobilizzando molto per questa situazione che parlavamo all'inizio, però principalmente questi due. Quindi una comunità variegata, un po' dispersa anche nel territorio, o ci sono città dove ci sono più presenti le persone di origine messicana in Italia? Sì, è un po' dappertutto, però sì, a Roma e a Milano c'è la popolazione più importante, diciamo. A Milano al nord, Lombardia. Ecco, siccome noi parliamo spesso, Cintia, di pregiudizi e di identità, no? Hai mai subito o sentito su di te l'ombra di una, più che di un pregiudizio, magari di uno stereotipo verso il Messico che gli italiani possono avere e che ti viene appiccicato addosso? Sì, forse il fatto di, cioè già il fatto di essere straniera, no? Per esempio, io come ti dicevo all'inizio, io ho vissuto a Roma i primi tre anni, e diciamo che la popolazione sì, io la sentivo più calda. Quando sono arrivata qua a Milano, una cosa che mi disturbava molto era che tutti quanti ti vogliono spiegare qualcosa, no? Ti vogliono rimproverare dicendo no, a Milano si fa così, a Milano si fa così, eccetera, no? È una cosa che a me dava fastidio. Adesso già diciamo è normale, però all'inizio non mi piaceva. Torni spesso nel tuo paese? Fino a un anno fa sì, sono andata 13 volte e anche questo mi ha aiutato a capire come stava cambiando il mio paese, no? Di maniera negativa per tutta questa violenza e la criminalità. Perché ogni volta che tornavi era un po' peggio? Sì, sì, sì. sì. Ma questa lotta al narcos è una facciata, quindi, secondo te, per il presidente? Io ho pensato anche questo, perché mentre si parla, per esempio, in primis i soldi che si destina alla sicurezza è tantissimo, e in realtà che non si vedono molti risultati, però poi allo stesso tempo ti rendi conto che gli altri affari, no? Cioè, praticamente il paese sta vendendo, no? In questo periodo sono entrati un sacco di multinazionali a comprare il paese, quindi a volte penso che sia un pretesto. Che questa lotta sia un pretesto per svendere un po'. Sì, e che ovviamente chi soffre è la popolazione, perché non è un'invenzione che adesso sono più di 25.000 persone scomparse in tutto il territorio, e questa è una cosa gravissima. E la comunità internazionale, secondo te, è vigile, è attenta o è un po' latitante? No, penso che è vigile, che quello che si dice fuori è molto importante. Per esempio, adesso Amnesty International ha detto che la crisi dei diritti umani che si sta vivendo in Messico è la più grave negli ultimi 50 anni, però purtroppo penso che non arriva... Non è abbastanza quello che dicono, perché già un po' tutti si hanno pronunciato sui problemi del Messico, però non lo so cosa bisogna fare per fermarlo, perché con questa corruzione, questa impunità che esiste, sembra che i governanti che stanno adesso non gli importa, quindi continuano, e sempre arriva uno che è meno preparato, non lo so, è veramente un po' deludente. La voce di Obama, ad esempio, potrebbe fare qualcosa? Si è espresso il presidente americano in questo senso? Ma lui ha espresso, per esempio, che voleva aiutare, no, a identificare, a sapere cosa aveva successo, cosa era successo con questi studenti scomparsi, però bisogna dire che anche il ruolo degli Stati Uniti è ambiguo. Sì, perché in tutto questo periodo, no, che della guerra contro il narcotraffico, anche loro sono stati molto interessati, per esempio, con il traffico di armi, no? Mm-hmm. E ovviamente la droga, e loro sono i primi consumatori al mondo, quindi sì, è difficile anche per questo. La cucina messicana presenta una varietà di piatti, aromi e ingredienti notevole, un grande impiego di frutta e verdura, carne, pesce e le immancabili tortillas. Un'importante caratteristica della cucina messicana è l'intercambiabilità dell'antipasto con il contorno. Tra i più celebri fra gli antipasti messicani c'è sicuramente il guacamole, una crema a base di avocado, cipolla, peperoni e aglio, che può essere spalmata su tortillas, nachos e consumata anche a colazione. Un altro piatto che in Occidente avremmo difficoltà a mangiare per colazione sono le huevas rancheros, uova fritte adagiate su una tortilla e condite con una salsa ai peperoni e cipolle. Tra i secondi, importantissimo è il burrito, composto da tortillas arrotolate ripiene di carne, spesso manzo, cotte in un soffritto di cipolla, con spezie e salse piccanti in abbondanza, servito assieme al riso e fagioli. Nella cucina Tex-Mex, i burritos prendono il nome di tacos e prevedono l'uso della tortilla estremamente cotta, a tal punto da diventare un guscio croccante. Il loro ripieno può essere costituito praticamente da un mix di ingredienti qualsiasi. Sempre a base di tortillas, altri piatti molto conosciuti sono le enchiladas e le fajitas, queste ultime però più diffuse nella cucina Tex-Mex. Importantissime anche le moles, termine con cui vengono definite nella cucina messicana tutte le salse. Il concetto di salsa è differente da quello a cui siamo abituati. Infatti, a causa della sua notevole importanza, anche il piatto basato sulla salsa stessa prende il suo nome. Ad esempio, uno spezzatino di carne con salsa tinga si chiama anch'esso tinga. L'enchilada è sia la salsa che il piatto vero e proprio. O ancora il celebre mole poblano potrà essere riferito sia solamente alla salsa, sia alla carne condita. Tra i più famosi moles, oltre al mole poblano, ci sono il mole amarillo, il mole de cacahuate, il mole coloradito, il mole rojo. Tra gli altri ingredienti famosi messicani troviamo il queso, formaggio leggero dalla consistenza morbida, il cacao, utilizzato in tantissime salse, i fagioli neri, bolliti, fritti, frullati, immersi in salse piccanti, eccetera, tantissima frutta e gli immancabili peperoncini, assieme ai loro composti derivati, chili, cipotle adobado, eccetera. Grazie a Cynthia Rodriguez, giornalista di origine messicana, per essere stata con noi questa sera. Grazie e buona serata. Grazie a voi, alla prossima. Grazie a Peter Bescapè in regia, a tutti voi per l'ascolto. Io vi do appuntamento a sabato prossimo. Buona serata da Valentina Furlanetto. You've got to give a little. That's the glory of love.